Buonasera, vi do il benvenuto a nome della Biblioteca Claudia Augusta e a questa serata, presentazione di un libro. E, vi anticipo, prima di iniziare, quelli che saranno invece i prossimi appuntamenti della biblioteca. In particolar modo domani alle 17 in biblioteca si terrà il gruppo di lettura localmente che leggerà il libro di Romina Casagrande, I quattro inverni. Mentre martedì prossimo, il 23, in questa sala, alle 17.30, l'architetto Claudio Lucchin terrà una conferenza dal titolo La città è teatro, il teatro è vita, la vita è intelligenza. Vi do quindi il benvenuto, ringrazio anche la Fondazione Museo Storico del Trentino e do il benvenuto soprattutto al nostro autore Fabrizio Fronza, che è in dialogo con Lisa Orlandi, libraia e bibliofila. Grazie e buona serata a tutti. Buonasera, grazie alla biblioteca per ospitare in questo bello spazio un incontro che verte su spazi belli e su spazi di bellezza. Questo è un libro che parla di giardino, di paesaggio, di teatro, di uno spazio artificiale che divulga bellezza. È un libro che nasce in Trentino, ma che in realtà ci racconta di spazi, geografie e tempi che attraversano un po' tutto il mondo. È un viaggio nel tempo di spazi colti. Allora mi piace questo gioco di parole, che gioco di parole non è, sono spazi colti perché sono spazi coltivati, sono spazi colti perché sono spazi di cultura, del resto la radice colere è la stessa evidentemente. Allora andiamo con ordine, l'editore è la Fondazione Museo Storico del Trentino, gli autori sono diciamo i curatori e autori sono Fabrizio Fronza, che è qui con noi oggi, agronomo, e Rodolfo Tajani, che è un archivista della Fondazione Museo Storico del Trentino. Sono un po' le due anime complementari che hanno realizzato un libro di straordinaria bellezza, è quello che ci racconterà oggi Fronza. Allora, da un lato, appunto, come vi dicevo, Tajani è un archivista, e quindi ha prodotto quasi la tassonomia di quelli che sono poi tutti i giardini che andremo a vedere in questo libro, mentre Fronza è forse l'animo più creativo di questa pubblicazione, certamente progettuale, l'animo artistico, essendo lui un agronomo botanico, però una persona di una grandissima competenza specializzato in ambiente, in paesaggio. Allora, brevemente, chi è Fabrizio Fronza? Oggi è il curatore dei parchi termali di Levico Terme e di Roncegno, è specializzato in manutenzione del paesaggio, il parco di Levico è specialmente noto perché fa parte dei giardini italiani, è un parco storico di grandissima bellezza, per quanti di voi non lo conoscono, ecco, questo è l'invito a venirci a trovare. Io sono libraia a Levico e quindi sono un po' campanilista, ma con giusta causa. È un parco colto e colto, perché è un parco coltivato, poi ci racconterà Fabrizio evidentemente, essendo a lui la cura, in maniera straordinaria, è un parco che vive tutto l'anno di iniziative culturali strepitose, che sono teatro, che sono musica, che sono presentazioni librarie, quindi siamo molto fortunati. Oltre a essere curatore, lui è docente di master del paesaggio e giardini all'Università Tuscia, ha lavorato allo UAV di Venezia e in diversi istituti di formazione, tra cui anche la Fondazione Benetton. Allora, già che i giardini sono lo spazio dove la creatività umana si manifesta e dove l'arte e natura si incontrano, quindi spazi colti, io ti chiedo subito di partire dicendomi come nasce questa pubblicazione e qual è stato l'elemento di desiderio che ha fatto sì che voi mandaste in stampa una pubblicazione di questo pregio. Beh, la pubblicazione nasce da un desiderio che covavamo sia io che Rodolfo, il coautore, da tempo, in quanto mi ritengo fortunato perché posso dire che coltivo una passione e la applico anche nel lavoro. Quindi una parte del mio lavoro è anche una passione. E una parte del tempo lo dedico a vedere e visitare giardini, dove posso cerco giardini, e anche a studiarli, e quindi avere questo privilegio non è da tutti, sono fortunato. E dopo alcuni anni che raccoglievo materiale su giardini storici, soprattutto storici, ma anche giardini e paesaggio, ho avuto questo impulso, di dobbiamo dare una forma a un processo che c'è stato nel materiale che ho raccolto, e ho trovato in Rodolfo Tajani la persona giusta, perché come ha detto Lisa, complementare a me, io sono anche disordinato nel modo di raccogliere, di esporre, lui mi ha messo ordine e mi ha aiutato anche poi a riempire i vuoti che avevo in questo percorso, che ha preso una forma poi in un catalogo. Ma la prima parte del lavoro è stata una mostra che è tuttora visitabile a Villa Paradiso, nel Parco delle Terme di Levico. Adesso ve la faccio vedere, così è questa. È un villino stile Liberty che nasce assieme al parco alla fine dell'Ottocento e che abbiamo voluto che fosse la sede di una mostra permanente che raccontava storie di giardini. Qui un tempo viveva il giardiniere, quindi stava anche bene il giardino. Il giardiniere stava molto bene. Il progettista giardiniere si chiamava Georg Zill e era stato commissionato da un imprenditore dell'area del nord della Germania, si chiamava Julius Adrian Polakschek, una persona molto eclettica, aveva fondato terme, costruito treni, scuole, aveva fatto un po' di tutto. E poi si è stabilito nel sud per lui, perché venendo da Berlino ha trovato questa zona, un narrativo dove costruire un parco nell'Ottocento. L'Ottocento è epoca di termalismo, scoperta di acque minerali, e quindi così nasce il Parco delle Terme di Levico. Il parco ha una villa che sembra sia stata la residenza del progettista giardiniere, e ha anche un albergo che è stato progettato da Otto Stahn, che è un architetto abbastanza famoso in area tedesca. Infatti ha costruito un famoso ponte a Berlino, un ponte rosso importante che si vede, si passa anche una linea della metropolitana, e anche dei villini su Avanze, che è uno dei laghi della cintura di Berlino. Guardiamo la mostra. Guardiamo la mostra mentre raccontiamo un po'. Sì, questo è proprio un esempio, questa è una delle mostre che sono state realizzate in Villa Paradiso, credo sia proprio un esempio lampante di come un giardino, in questo caso il nostro parco di Levico, permette di dialogare con il pubblico e di fare cultura attraverso delle forme studiate. Sì, l'idea è proprio che un giardino deve essere anche un promotore di cultura, ma non è che l'ho inventato io, lo dicono i manuali, fra virgolette, di buone pratiche. C'è una carta dei giardini storici che si chiama Carta di Firenze, ma anche lo stesso codice dei beni culturali e del paesaggio ci dà degli indirizzi su cosa si dovrebbe fare per i giardini storici. E quindi abbiamo pensato che era un po' limitativo tagliare l'erba e svuotare i cestini, abbiamo pensato che si può fare dell'altro. È partito anche della musica, e questa è uno dei filoni di questa mostra. Perché il percorso viene all'interno dei giardini, ma ripercorre vari filoni. Adesso lo fermo perché altrimenti si può abbassare il volume? No, sono io. Ah sì, da queste, grazie. Benissimo. Vabbè, allora, la dimensione culturale e sociale del giardino, evidentemente non solo quello di Levico, come dici tu, non è inventato niente, però è anche proprio uno degli elementi che percorrono questo libro. Perché se vogliamo, allora, la mostra tu raccontavi fa un po' un excursus della storia dei giardini coltivati. Sì, intanto devo dirlo, non è un testo specializzato, è un testo per avvicinare tutti un po' al tema dei giardini storici, e quindi vuol dare delle chiavi di lettura su alcuni aspetti, su alcuni filoni. Il primo è proprio la storia dei giardini, un'evoluzione dello stile. Come il giardino storico nelle varie culture, a partire dall'antichità fino alla storia contemporanea, questa storia si è evoluta, ci sono degli stili che prevalgono in determinate epoche. E questo è una delle chiavi di lettura che diamo. E tu ti riferivi alla musica quando è partito questo libro, e quindi raccontaci... Che mi ha colto un po' di sprovvista, perché non mi ricordavo fosse qua, perché volevo farvi sentire un altro brano, lo facciamo dopo. Però è uno dei percorsi che abbiamo individuato. La musica è stata uno dei temi ispiratori di musicisti che hanno visto dei giardini o dei paesaggi, poi hanno scritto dei brani, oppure si sono fatti ispirare da questi paesaggi, oppure hanno scritto dei brani proprio per che dovevano essere eseguiti in ambienti particolari come quello delle colonne sonore. Ante litteram. E questo è uno dei filoni. L'altro filone è probabilmente anche la parte relativa alle piante che noi troviamo in questi giardini. È certo, perché le piante hanno sono un po' le protagoniste, hanno no? una storia, sono le protagoniste dei giardini e risentono di quello che è successo nella storia della nostra civiltà. Innanzitutto degli imperi, perché se pensiamo all'impero inglese, che è uno di quelli che hanno movimentato più piante, attraverso i vari canali, le varie navi che si muovevano nel mondo, sono arrivate a noi tante piante che prima erano sconosciute. Nel bene e nel male, perché alcune si sono un po' allargate un po' troppo, però hanno arricchito e di molto le collezioni dei giardini occidentali. E poi committenti, personaggi benestanti, quindi potevano essere nobili, borghesi, eccetera, che finanziavano spedizioni alla ricerca di giardini di piante per i loro giardini per stupire i loro invitati o le persone che visitavano questi giardini. Quindi ci sono una serie che poi magari entreremo nel dettaglio, tu hai portato da alcune... Entriamo nel dettaglio, tralascio il... Ecco, questo è una delle immagini di alcune delle piante. Bellissime, certo. Allora, ho dimenticato di dire questa cosa rispetto alla tua biografia, che ho stringato perché non volevo, perché è un curriculum evidentemente molto più ampio rispetto al breve riassunto che ho fatto, che è un ottimo fotografo, è un valente fotografo. Infatti in questa pubblicazione, oltre a delle bellissime immagini di piante e immagini di tutta una serie di gallerie fotografiche, c'è una bella, una ricca sezione iconografica, ci sono anche delle bellissime immagini di parchi che tu hai personalmente visitato, con la scusa di voler, spinto dalla tua curiosità e dalla tua passione, diciamo che hai mappato un po' tutti i parchi d'Italia, d'Europa, del mondo. Ne ho mappati, mi piace girare e fare fotografie. Questa è una parte della passione. Sono fotografie molto belle che ci restituiscono anche molti dei viaggi che hai realizzato e quindi anche dei parchi che hai visitato. E quindi c'è la galleria biografica degli agronomi e dei pionieri anche della tassonomia. C'è una bellissima galleria relativa a queste piante anche alloctone, no? Che sono state importate per arricchire e permettere a questi straordinari giardinieri di divertirsi con un paesaggio. E poi ci sono tutta anche una serie, direi, di saggi interessanti, di approfondimenti, e questo credo sia proprio il grande valore aggiunto che ha questa anche pubblicazione rispetto a quello che noi possiamo vedere nella mostra, che c'è ancora a Levico, quindi insomma io vi invito. Sì, se vi capita di passare è visitabile, è gratuita. E quindi un po' espone in un modo diverso alcuni dei temi che sono riportati anche nel libro. Diciamo che la traccia musicale è sicuramente più interessante poterla ascoltare che non leggere, perché poi uno trova nel catalogo delle descrizioni, può anche cercarsele in biblioteca, su Spotify, dove vuole, insomma, ecco, su uno dei tanti canali che ormai esistono, però lì sono organizzate anche per poterle ascoltare con dei commenti che sono stati scritti ad hoc e sui quali ci ha aiutato un maestro d'orchestra trentino che ha partecipato volentieri a questo progetto. Ecco, quindi cercare un filone che legasse il paesaggio, i giardini e la musica, quello che... A questo punto ti chiedo una cosa, da quanti anni sei curatore del giardino di Levico? Sì, dal 1995 circa, quindi da un po' di anni. E quindi è l'unico giardino, è l'unico, diciamo, parco pubblico, perché è un parco pubblico inserito nel circuito dei grandi giardini italiani in Trentino Alto Adige? No, in realtà no, perché ci sono, in Alto Adige sicuramente ci sono i giardini di Trautmannsdorf, okay, di Merano, certo. E non sono, non so, forse ne hanno aggiunti anche altri, però c'è Artesella in Trentino, se la conoscete, che è un giardino, ma anche un museo all'aperto dove degli artisti. E questo è anche uno dei temi. Cos'è il giardino oggi? Non è solo uno spazio cintato dove ci sono le piante, ma è anche uno spazio che a volte serve per esporre, per creare arte, per esporla e per motore di eventi culturali. Ecco, questo Artesella è questo. Ma infatti io ti volevo proprio chiedere questo, alla luce di 30 anni di esperienza e di evoluzione, di crescita di un luogo e anche di una professione, la domanda da $1 milione, cioè, secondo te a cosa servono oggi i giardini e i parchi coltivati? Qual è la funzione di un parco pubblico, di un giardino coltivato alla façon, per esempio, di quella di Levico Terme? Mi viene in mente il titolo di un convegno di tanti anni fa, il giardino, spazio di benessere del corpo e della mente. Benessere in senso lato, perché ci sono anche molte pubblicazioni, anche pubblicate per esempio dall'Azienda Sanitaria di Verona, di cosa comporti vivere, passeggiare quotidianamente in un giardino, benessere del movimento, della ionizzazione negativa delle molecole d'acqua in movimento, quindi l'acqua in movimento emette ioni negativi che ci influenzano positivamente, ci fanno star bene. È esattamente l'opposto di stare di fronte a un monitor che emette radiazioni positive, insomma, ecco, qui dopo un po' uno percepisce qualcosa che non va. E poi c'è la questione artistica, un giardino è espressione anche d'arte, e quindi lo vediamo dalle antiche pitture, e questi sono gli affreschi del Ninfeo della villa di Livia, di Prima Porta, attualmente al Museo Nazionale Romano. Ci raccontano una storia, ma ci raccontano anche l'arte, e i giardini sono espressione d'arte. Mi sono perso. No, adesso ti riporto a te. In realtà a cosa serve? Qui ci puoi tranquillamente raccontare a cosa servono i giardini pubblici. Anche questo è un esempio di giardino della Fondazione Getty. Sì, questo è a Malibu, in California, ed è una ricostruzione, perché ovviamente di giardini dell'epoca romana, dell'epoca antica, rimangono solo tracce, pitture o reperti archeologici. Questa è una ricostruzione però che si ritiene fedele di quello che erano i giardini, con l'ars topiaria che poi viene ripresa nel Cinquecento, queste forme obbligate delle potate di piante, e il giardino che è uno spazio, è interessante perché questo è uno spazio privato, il giardino di una persona benestante che ha una villa dove passa il suo tempo libero, il tempo dell'ozium per i romani, in un giardino. E questo fatto che fino a un certo punto è privato, a un certo punto diventa pubblico. Allora, qui abbiamo invece il tulipano, che è, diciamo, il, dopo. Che è una specie che ha portato anche a molta letteratura, perché è stato l'oggetto di una delle più importanti bolle speculative, credo, intorno al 1600, mi pare. Sì, allora qua ci sono due chiavi di lettura. Uno è il filone della storia delle piante, che è uno dei quattro filoni di questa mostra e del libro. Dico, come le piante sono arrivate a noi, nei nostri giardini, e quindi abbiamo parlato mi vengono in mente la moda delle conifere nell'Ottocento, le grandi spedizioni, soprattutto nel Nord America, le sequoie, i pini, gli abeti del Nord America, finanziati spesso da persone benestanti, da lord o penso ai due, Tradescant, padre e figlio, li raccontiamo in questo libro, ma poi la bolla dei tulipani, quindi la prima bolla speculativa della storia, una moda, come spesso succede nel mondo dei giardini, che finisce per diventare una ricerca forsennata dei bulbi che il mercato non era più in grado di dare, e quando la domanda supera di molto l'offerta, tutto il mercato si sgonfia e delle persone rimangono senza patrimoni, senza soldi, e i tulipani, un tulipano come questo, il Semper Augustus, valeva come 47 anni di stipendio di un operaio. Ecco, si è fatto un po' un conto, storie che sono raccontate, insomma, ecco, perché anche da autori, penso al tulipano nero. Sì, anche Dumas, certo. Ecco, ed altre. Quindi è una bella storia che si studia anche in economia, perché la bolla speculativa e i tulipani a un certo punto non erano più venduti in quanto tali, ma c'era un mercato di titoli, pagherò a fronte di una fornitura che poi non c'è più, perché il mercato si è esaurito. Scomparso. Andiamo avanti, cosa ci abbiamo adesso? Ecco, i trattati che fioriscono, che si sviluppano sui tulipani e le forme del giardino, quindi i temi delle piante, dei fiori, come sono raccontati e come entrano nella storia. La fritillaria, per esempio, è una delle piante che prendono possesso dei giardini medicei, siamo nel Cinquecento, è una delle piante che tuttora si possono vedere nelle ville della cintura attorno a Firenze, la Fritillaria Imperiali, sola celosia cristata, che questa arriva da Oriente. E tutti i trattati, quindi si raccontano storie anche un po' di trattati di autori che scrivono libri e che portano avanti una cultura del giardino che prende sempre più forma e viene codificata. Va anche detto che fino a un certo punto della storia si fa riferimento ai trattati antichi, perché è da lì che poi nasce tutta una letteratura. In che periodo si sviluppa una letteratura consapevole e una codificazione del paesaggio del giardino? Diciamo che dove c'è veramente una proliferazione di testi è in epoca abbastanza recente, quindi 800-900, si produce molto, si scrive molto. Perché il paesaggio di fatto è un'invenzione culturale, perché allora noi abbiamo questa erronea, noi insomma nel comune sentito, questa erronea convinzione che dell'elemento naturale, no? Mentre sì. Il paesaggio è evidentemente qualcosa è un artificio umano. È un artificio umano, è anche una definizione della Convenzione Europea del Paesaggio. Il paesaggio è quello che l'uomo percepisce e costruisce. E devo dire che se guardiamo al paesaggio occidentale sono pochissimi gli spazi dove l'uomo non è intervenuto, anzi non so se ne esistano. Il paesaggio anche della nostra regione è tutto un paesaggio forgiato dall'attività umana. E questi trattati, per esempio, e qua ne abbiamo una citazione dell'Ipterotomachia Polifili, che è il sogno di Polifilo, che è un testo del Cinquecento di un frate, Francesco Colonna, che racconta un sogno, che è anche un sogno erotico, che ha delle trasposizioni poi nel disegno di un giardino, che è un motivo ispiratore di quello che sarà il giardino all'italiana. Quindi è uno dei temi che ci porteranno a questi giardini. Questa è una delle lunette di Giusto Utens, che sono attualmente a Villa alla Petraia a Firenze, e che ci illustrano come erano i giardini dell'epoca e in modo anche molto realistico, e quello che si vede è che sono disegni molto geometrici, sono disegni di un uomo, quello del Rinascimento, che pretende di essere al centro dell'universo e di dominarlo e che quindi crea le forme, costringe le piante in determinate forme che decide lui e questo è il risultato. Ci sono, come dicevamo, sono degli elementi di artificio. E allora, cito un grande studioso che è Pierre Grimal, che ha scritto tantissimo anche sui giardini antichi, no? Dell'antica Roma. Uno dei più bei testi di giardino, secondo me. Un libricino piccolo, però Diamo anche consigli di lettura, quindi Pierre Grimal. Beh, Pierre Grimal, è il titolo esatto in questo momento non lo ricordo, però una storia dei giardini. Noi... E poi è uno studioso che ha prodotto un bellissimo testo approfondito sui giardini di Roma antica. Lui dice così: i giardini sono quei meravigliosi recinti in cui si impara a barare con le regole della natura, perché sono luoghi di acclimatazione, di coltivazione, di sperimentazione e costruzione di paesaggio. Allora mi piace molto questo verbo utilizzato il barare, perché apre diversi immaginari, se vogliamo. Allora ti chiedo una riflessione su come si può barare e su come si bara oggi. Si barava di più in quest'epoca, perché in quest'epoca proprio in quest'epoca di Boboli? In quest'epoca di Boboli, quando si voleva dominare la natura, quindi dare delle forme artificiali sia al giardino che alle piante. Addirittura si spostavano fiumi interi per creare fontane, come qua a Villa d'Este, a Tivoli, raccontiamo anche di Villa d'Este, ma questa Villa Lante a Bagnaia, forme molto regolari, la parte architettonica molto disegnata, e qua di natura c'è poco, cioè c'è natura perché ci sono piante, però si vede che è costretta in forme decise dall'uomo. C'è anche l'eccezione che un po' conferma la regola, che è quella del Sacro Bosco di Bomarzo, oggi impropriamente chiamato Parco dei Mostri. In realtà era un sacro bosco, una serie di episodi mitologici dove siamo qui per Orsini, siamo nel Viterbese, cioè vicino ad Orte, dove vicino Orsini aveva dedicato alla moglie, che era una Farnese, questo meraviglioso parco. E sono sculture che emergono da un bosco. E quindi questo è un po' è un unicum in un panorama di giardini che hanno delle forme obbligate come quelle che abbiamo visto. Forse prima. Anche un po' un antesignano tra questa esplorazione di coabitazione tra arte e natura. Sì, direi assolutamente sì, anche se lì quello che lui voleva raccontare erano degli episodi del mito. Okay, ecco, quindi stupiva comunque il visitatore con un elefante che a un certo punto si trova nel bosco. Non so se lo conoscete, merita sicuramente un viaggio, ecco, quello andare nel Viterbese. Io ci andrei solo per vedere questo, perché piace anche ai bambini, ecco, perché è veramente qualcosa di particolare. Quindi insomma un tempo si barava meglio quando c'era il dualismo cartesiano, no? Si diceva da una parte la natura, dall'altro l'uomo, invece oggi che siamo un po' più, abbiamo un approccio un po' più olistico, dove ci sentiamo parte osmotica, no? L'uomo fa parte della natura, siamo in un grande complesso vivente. Diciamo che dal romanticismo ci siamo molto avvicinati, ecco, molto di più. Rappacificati, se si vuole. Quindi forse per certi aspetti. Da un lato non si bara più, quindi oggi qual è il nostro approccio con i giardini più contemporanei? Allora, intanto, lasciamo le immagini, ci arriviamo dopo. L'approccio attuale è anche codificato da regole che sono, per esempio, per il verde pubblico c'è molto più attenzione a quello che è un approccio naturale. Il mondo del paesaggismo, di chi disegna giardini, li disegna anche con maggiore attenzione alla natura, alle specie da utilizzare, alla sostenibilità, che è un termine abusato, però è obbligatorio perché siamo in una fase in cui le risorse si contraggono, quindi bisogna usare piante che in teoria perlomeno che si mantengono da sole. E le forme sicuramente non sono quelle dei giardini di questo tipo. L'orto botanico di Padova, molto disegnato, segna un'epoca, però è comunque uno dei giardini del Cinquecento, dell'epoca in cui l'uomo dominava. Quindi il gusto si è evoluto soprattutto a partire dall'evoluzione delle idee, della filosofia, della pittura. È un mondo che va avanti parallelamente e in modo convergente. Hai citato la filosofia e mi viene in mente uno dei bellissimi saggi che è presente, che è quello del filosofo Massimo Venturi Ferriolo, sì, che venne invitato anche qualche tempo fa proprio a Levico a presentare quel suo saggio pubblicato per Le Vele in Audi, che si intitolava Trasformare il giardino in mondo, ora non ricordo bene, però era una cosa simile. E allora lui diceva proprio che la filosofia ci insegna proprio dal significato originario di giardino come grembo della vita, ad agire nel rispetto del nostro pianeta, quindi di noi stessi, e quindi insiste sull'elemento della cura, e poi commentavamo venendo qui in macchina anche della cura e della custodia degli spazi che abitiamo, no? E quindi il giardino da un lato è un luogo privilegiato, non so con chi ne parlavo, con un signore mentre aspettavamo di entrare, dove si diceva che il giardino poteva essere proprio la metafora di un buon luogo, di un luogo dove stare bene e di un luogo dove possiamo esperire anche un grado di armonia superiore rispetto anche alle brutture cui stiamo quotidianamente essere assoggettati. E quindi io ti chiederei una riflessione rispetto a questo approccio, se è nelle tue corde e se sì, e quali sono stati, diciamo, gli sviluppi pratici che hanno poi portato anche nella tua professione e la tua e quella dello staff che cura questo spazio verde di Levico. Beh, hai citato Massimo Venturi Feriolo, ma è uno dei filosofi che hanno portato idee nuove nel mondo del giardino in epoche relativamente recenti, è Gilles Clément, certo, il filosofo giardiniere francese, che ha iniziato a sperimentare le proprie idee. Le sue idee sono state quelle, intanto ha affrancato le erbe spontanee, quindi le cosiddette vagabonde. Anzi, ha parlato delle piante del terzo stato, quindi il terzo paesaggio nella sua visione è il paesaggio di spazi marginali non curati, che però, se guidati dalla mano di un giardiniere, e la sua idea è di un giardiniere che governa un mondo che sta andando un po' alla deriva, quindi vedere il mondo come un giardino vuol dire occuparsene e avere la cura del paesaggio, e lui porta queste idee, di nuova idea di ecologia, nel mondo dei paesaggisti e quindi del giardino. Quindi ha portato una ventata di nuovo e ha aperto nuove frontiere anche a chi progetta. È molto nelle mie corde, perché credo che già da 25 anni noi abbiamo abbandonato la chimica nella gestione del Parco delle Terme di Levico e ci stiamo occupando anche delle piante che crescono spontaneamente, quindi non inseguiamo delle idee false di tappeti erbosi perfetti dove cresce solo il filo d'erba che decidiamo noi, ma diamo spazio alle fioriture spontanee, perché c'è un mondo di biodiversità che si nutre anche di altri fiori, di altri spazi, e se noi lo curiamo, ci occupiamo anche di questo, abbiamo maggiore biodiversità, abbiamo maggiore resilienza di un ambiente che è più articolato, più diverso, più biodiverso, e quindi poi abbiamo, oltre che un ritorno paesaggistico, quello che vedo è persone che vanno a fotografare i prati fioriti nel parco. Non sono fioriti tutto l'anno, però in alcune stagioni li lasciamo crescere e fiorire. Anche questa non è un'idea mia, però è un'idea che ha preso piede e che troviamo in molti giardini, insomma penso all'isola di Mainau in Germania, dove già da anni fanno queste cose. E quindi biodiversità, più insetti, più resilienza e un ambiente che è più naturale. Meno chimica vuol dire anche un ambiente migliore per chi ci lavora e per chi poi frequenta il parco, certo, perché dobbiamo pensare anche a noi e soprattutto agli insetti pronubi. La crisi delle api è uno dei temi. Insomma, ecco, certo, se noi trattiamo con insetticidi perché inseguiamo il mito della nostra idea di perfezione, finiamo per autodistruggerci, perché distruggiamo degli ecosistemi. Se combattiamo le api, diceva si bara però Einstein, sul breve termine si bara. Quando l'ultima ape morirà, moriremo anche noi, e penso che sia vero. Forse saremo già morti. Saremo già morti. Saremo già morti, era così. Allora, avrei un altro paio di domande da farti, però prima mi piacerebbe che tu proseguissi nella carrellata, perché i parchi raccontati da chi i parchi li ama sono straordinariamente animati. Allora, sì, l'evoluzione dello stile in cui l'uomo è ancora dominante, qua è ancora più dominante. Questo è il parco di Vaux-le-Vicomte, e era il ministro Fouquet, che era uno dei ministri del Re Sole, quindi di Luigi XIV. Lui, tutti sono concordi nel dire che ha superato il Re Sole nel parco di Versailles, infatti è veramente impressionante. Gli ha costato anche la carriera. È stato punito, immagino. È stato punito perché non si può oscurare il sole. Però ci ha lasciato questo, e grazie che l'ha fatto. Eccolo qua, raccontiamo anche di questo. E poi un modello che arriva anche in Italia, Caserta o la Vineria Reale a Torino, che è un modello che ha lasciato tracce un po' in tutta Europa, perché come al solito poi le mode, le nuove idee un po' alla volta prendono piede. Qua siamo a Potsdam, a Sanssouci, e arrivano, si evolvono e poi a un certo punto arriva qualcuno e dice ma questo è il modello giusto o c'è dell'altro? Qua, a un certo punto della storia arrivano pittori, arrivano dei filosofi, penso a Rousseau, ma anche a pittori come Lorrain, che raffigura dei paesaggi arcadici di giardini veri o inventati che siano, però le forme non sono più quelle di una natura dominata dall'uomo, ma sono una natura naturale. E questa è l'idea che prende piede in quello che viene definito English Landscape Garden, il giardino paesaggistico all'inglese, che parte proprio da un ideale pittorico e viene anche supportato da qualche inventore, qualcuno che scopre per caso un sistema per trasportare le piante in giro per il mondo. Gli inglesi all'epoca, nell'Ottocento, avevano già un impero che ben radicato e quindi avevano la possibilità di intraprendere commerci soprattutto con l'Estremo Oriente. Però le spedizioni alla ricerca di piante fallivano miseramente, si parla di più del 99% di fallanze, mi sembra 99,7%, quindi una cosa, moriva tutto. Quello che caricavano sulle navi, galeoni che imbarcavano acqua salata, e qua arrivavano cadaveri. E poi un medico, questo Nathaniel Ward, per caso, la trova in una cantina una piccola serra, e nota che all'interno saranno sviluppate delle piante, dei muschi, e che ci vivevano bene, e quindi dice potrebbe essere un'idea coltivare delle piante lì. E quella delle Wardian Cases, che sono delle scatole di Ward, diventa subito una moda dei giardini vittoriani, li mettevano come centro tavola con dentro le piantine, ma poi qualcuno ha anche l'idea di utilizzarle per portare le piante nelle stive dei galeoni, riparandole dagli getti dagli schizzi di acqua salata. E qua inizia una svolta, una nuova storia. Le piante arrivano vive, perlomeno una piccola percentuale, che è di più di zero di quello che arrivava prima. E da lì troviamo un nuovo stile, che è quello pittorico e di nuove idee filosofiche, ma anche nuove piante che vengono introdotte soprattutto dagli imperi olandesi, inglesi, ma anche dalla Francia, insomma ne arrivano molte. E questo è uno dei modelli, il cosiddetto parco, i parchi paesaggistici all'inglese, uno dei grandi parchi, il parco di Stowe, che in una prima fase ha delle influenze neoclassiche, poi si libera di tutto e resta solo natura, con altri personaggi. Quindi fra le biografie molto sintetiche, perché come ripeto è un testo che vuole avvicinare, poi se chi vuole approfondire trova molto, perché c'è una ampia letteratura insomma, ecco, sugli autori, sulle piante, eccetera. E William Kent è uno dei primi a progettare giardini in questo modo. E qua troviamo ancora strutture palladiane, neoclassiche, ponti, eccetera. E poi la natura e basta. È uno stile che dilaga in Europa. Questo è il parco di Wörlitz, che è in Sassonia, sulla rotta da qua per Berlino, lo troviamo, ed è proprio un parco dove l'architettura è minima e c'è molta natura. Non è che sia assente, c'è anche architettura, però la forza è quella della natura. E il disegno, cioè, sembra tutto natura, in realtà tutto creato dall'uomo. È una natura molto dosata, un po' come di grande bellezza, proprio perché sapientemente dosata. Anche mi riferisco a Levico, perché è un po' il mio metro di riferimento. Quando ci accostiamo a questi alberi centenari, pensiamo veramente a quale prodigio di spontaneità. Sì. Cosa che non è assolutamente così. E a questo punto ti faccio una domanda per intervallare la tua galleria, proprio rispetto agli alberi. Perché allora Oggi con molta della letteratura partendo da Stefano Mancuso sull'intelligenza delle piante sappiamo che gli alberi sono degli esseri animati, senzienti e che possono parlarci e dirci molte cose se noi siamo in grado di osservarli, ecco, apparentemente immobili ma invece hanno molto da dire e probabilmente noi ci accorgiamo di quello che hanno da dire quando accade l'irrimediabile, penso a degli schianti terribili come quello che è capitato proprio nel nostro parco quando ci fu la tempesta di Vaia, perché il nostro parco, ma forse è meglio se ce lo racconti tu, subì gravissimi danni in quell'occasione e quella è la punta dell'iceberg che si riconduce ai messaggi che ci possono dare, perché parlano del passato ma diciamo che possono parlare anche dell'immediato futuro. Per la storia del Parco delle Terme di Levico, i due ultimi fatti salienti, importanti, in negativo e anche in positivo, sono fondamentalmente due. La tempesta, direi tre, perché c'è stata una prima tempesta nel 2002 che ci ha portato via circa 350 grandi alberi, erano soprattutto abeti, che però, devo dire, erano stati anche piantati in modo un po' casuale nel corso delle feste degli alberi, quindi non si era rispettato un disegno o la volontà del progettista. Poi nel 2018 invece questo è stato un momento di svolta, e dico in negativo perché Vaia, lo conoscete tutti, quello disastro che ha colpito le Alpi e ha colpito anche il parco, abbiamo perso circa 160 grandi alberi ed erano alberi che erano ormai avrebbero dovuto far parte del patrimonio del parco, erano già stati selezionati, facevano parte di un disegno di un progetto di restauro che era ormai ultimato e quindi dovevano rimanere lì nelle nostre idee. Però nel giro di una notte una situazione drammatica e che ci ha lasciato tutta la zona orientale del parco senza alberi e quindi da lì è dovuto partire un progetto e un'azione di reimpianto. Però cito un altro fattore che è un dramma collettivo, quello del Covid, perché tutti noi sappiamo cosa è stato, cosa ha significato per la nostra società, per il fatto di rimanere chiusi, di un sacco di problemi. E per noi è stato anche un momento fortunato, perché per me trovarmi a un certo punto con i cantieri che seguo, cantieri di Verde, mi occupo di progettazione, direzione dei lavori e dirigo un ufficio che progetta parchi e quindi siamo fermi perché il personale è a casa e operai sono fermi, non possono lavorare, e è il momento di riordinare le idee e da lì nasce la mostra e successivamente anche il catalogo. Quindi per me, io lo ricordo negativamente per quello che tutti noi sappiamo, ma è stato anche un momento di riflessione, l'unico momento che ho potuto dire stacco la spina su tutto il resto e mi dedico a questo. E questo ci riporta probabilmente alla figura del giardiniere, perché in un certo senso tu hai fatto un po' il giardiniere con la carta qui, se vogliamo. Sì. E quella della figura del giardiniere è un'arte effimera, dice Gilles Clément, che confesso piace molto anche a me, e dice proprio che il giardiniere è un mago. Allora io perché questo libro è anche innervato di riferimenti letterari molto brillanti, per quanti di voi amano questa commissione tra le arti, allora cito la Pia Pera, che è una scrittrice molto amata, c'è una frase da quel bel libro, Al giardino ancora non l'ho detto, che dice così, perché suggerisce che verrà un giorno in cui il giardiniere non terrà fede al consueto appuntamento, ovvero il giardino non lo sa, ma di colpo cesserà ogni cura. La natura tornerà all'unica forza, si interromperà il dialogo tra uomo e paesaggio espresso nel giardino, che è appunto la più effimera delle arti. E, a differenza di un pittore, di uno scultore, di un architetto o di un poeta, c'è molta meno slealtà. Quando il giardiniere interrompe la sua effimera arte, la natura, lo vediamo, riprende possesso. Allora io ti chiedo un'azione di ingegno e di immaginazione. E allora, che cosa succede a uno spazio colto quando l'arte effimera viene meno? Lo spazio colto diventa spazio di delle piante che riescono a conquistarsi uno spazio. E quindi, è un gioco di parole, però in realtà quello che sta succedendo adesso e che vediamo purtroppo ovunque è che ci sono alcune specie di piante che si allargano molto e lo fanno a scapito delle piante più deboli. E sono piante cosiddette neofite, piante che arrivano soprattutto dall'America, ma poi ogni zona ha le proprie neofite, quindi è una questione che non ha regole. Le regole funzionano qui e in questo momento, o da un'altra parte funzionano in modo diverso. E quindi ci sono alcune piante, possiamo osservarle anche da noi, che si allargano e che fanno piazza pulita di tutto il resto. Questo è particolarmente evidente in una fase come questa dove il cambiamento climatico è in atto. Quindi è un tema che non è molto bello, perché in realtà la mano del giardiniere, come dice Gilles Clément, è quella di guidare la natura e di far sì che può guidare anche la biodiversità. Se noi lasciamo ai lanto, per esempio, che è una specie invasiva, di espandersi, in poco tempo questa specie spazzerà via tutto il resto. E quindi è un tema di biodiversità mancata. Questo è particolarmente evidente in questa fase storica, dove sta cambiando il clima, si stanno sfasando anche dei parassiti naturali che tengono a bada certe specie, quindi ci sono disequilibri. Quindi non è molto bello quello che si vede. E che strategie possiamo mettere in atto? Le strategie dovrebbero essere tempestive e agli stadi iniziali di diffusione delle specie, e questo non è successo. Poi purtroppo le amministrazioni pubbliche, che sono quelle che devono occuparsi di queste cose, agiscono per ambiti territoriali. Quindi, non so, faccio un esempio, in Nord Italia il Piemonte è tra i primi che si è mosso, però la giurisdizione del Piemonte arriva fino a un certo punto, di là c'è la Lombardia che è arrivata 10 anni dopo. Trentino non ha ancora fatto quasi niente. Oltre al fatto che la natura non vede i confini. No, la natura non vede nessun confine, quindi la strategia dovrebbe essere globale e dovrebbe essere improntata anche alla responsabilità dei singoli. Sì, come dovrebbe essere sempre in cima alle agende della politica le azioni di intervento per mitigare per quanto possibile la crisi climatica, sì. Questo è evidente, certo. Ne ha parlato molto, ha parlato di questi temi, proprio Mancuso, che hai citato anche nel convegno recente di arboricoltura di Merano, bellissimo convegno, una lectio magistralis molto apprezzata, con un linguaggio che era comprensibile a tutti, però ha fatto un quadro che è abbastanza drammatico. Ecco, quindi occuparsi del verde, degli alberi, del tema del cambiamento climatico deve essere un tema di tutti, e quindi anche di chi gestisce poi gli spazi verdi. Abbiamo forse ancora 5 minuti prima, per non sforare l'ora, se hai voglia di mostrare qualche altro. Allora, abbiamo parlato del giardiniere che è anche pittore, e quindi cito Repton, che aveva fatto i famosi red books, i quadernetti rossi, dove disegnava un paesaggio prima e dopo, quindi era un rendering ante litteram di come si faceva all'epoca dei giardinieri inglesi. Poi i cataloghi, soprattutto nell'Ottocento, che è il periodo in cui il giardino ormai si affranca come episodio pubblico, non è più il giardino di una villa, come erano le ville del Cinquecento. Il giardino era sempre confinato a un ambito ristretto e godibile da pochi, ma ormai sono parchi pubblici. Questo succede in Francia con il prefetto Haussmann, e quindi giardini, alberate, stradali, ma è un fatto che dilaga un po' in tutta Europa, e non solo, perché è considerato giardino occidentale anche uno degli emblemi di giardino pubblico, che è il Central Park di New York. Molto cinematografico. Molto cinematografico, tutti lo conoscono, 330 ettari, comunque è uno spazio molto bello, molto godibile, ed è fruito da tutti. La moda delle conifere, come dicevo, arriva anche da noi, arriva nel nostro parco, anzi il parco delle Terme di Levico, di cui diamo ampio conto perché ovviamente la mostra nasce lì, e quindi raccontiamo soprattutto la storia del parco. arriva da noi perché nell'Ottocento, quando abbiamo formato il parco, pensato il parco e fondato, è l'epoca della moda delle conifere. Questa è una sequoia, così com'era prima di morire, 2002. Ora trasformata in un'opera d'arte da un'artista americana che lavora in Olanda. E qua vediamo... E che noi usiamo come quinta per presentare i libri o per realizzare dei concerti. È molto bello. Uno spazio molto piacevole. Una ricomposizione. L'altro parco delle Terme di Roncegno, e poi raccontiamo di altri esempi italiani. Questo giardino, l'Oasi di Ninfa, sempre centro d'Italia, e raccontiamo anche di paesaggisti moderni, uno molto importante, Pietro Porcinai, forse il più grande paesaggista della storia italiana. Sicuramente molti non sanno che è anche colui che si è occupato del paesaggio dell'autostrada del Brennero. Lui aveva ipotizzato tutta una serie di sistemazioni a verde, svincoli, anzi poi era andato negli Stati Uniti a cercare un materiale diverso per che si confondesse di più col paesaggio naturale, il corten, che adesso è diventato una moda, quindi questo acciaio arrugginito l'ha portato lui. Ed era anche un grande paesaggista, ha firmato tantissimi progetti in giro per l'Italia di giardini pubblici e privati. E poi è stato il padre fondatore dell'architettura del paesaggio in Italia. Ecco, quindi. E poi altri giardini, questo è Sissinghurst, che è un pluripremiato giardino nel Kent, abbastanza vicino a Londra, quindi i fiori, le piante, giardino che nasce come opera d'arte proprio da persone di animo artistico, scrittrice e Vita Sackville West, scrittrice e anche giardiniera. E poi per arrivare ai paesaggi più contemporanei, che sono questo giardino dal nome impronunciabile, che non riesco mai a dirlo, che è Skogskyrkogården, comunque è il cimitero di Stoccolma, che è fra l'altro un sito UNESCO premiato da un premio internazionale, è un posto di assoluto pregio dove si va anche per passeggiare, perché dà benessere ed è bello da vedere, bello da percorrere. Si trovano anche tombe di personaggi famosi. Sì, e poi dopo al nord notoriamente sono meno scaramantici di noi, cioè non c'è questo tabù rispetto anche alla morte, quindi si passeggia amabilmente. Ho visto anche fare dei picnic comunque nelle zone limitrofe ai cimiteri. Ecco, questo, E poi raccontiamo qualche storia di giardino di paesaggisti importanti, quindi di epoca contemporanea. Roberto Burle Marx, brasiliano, il padre dei giardini della capitale moderna del Brasile, di Brasilia, che però ha un substrato culturale europeo perché lui si era formato a Berlino, quindi da architetto e botanico all'orto botanico di Berlino ha portato in Brasile l'idea di lavorare con le piante autoctone, molto colorate, e quindi i suoi giardini sono un'immagine di quella che è la flora brasiliana. E con una creatività incredibile, un personaggio di assoluto valore, riconosciuto, eccone qua, uno del sito della Tenuta da Bica, che è una delle sue proprietà a Rio de Janeiro. Raccontiamo anche qualche storia di piante, e per citarne una di quelle tra le ultime scoperte, la Bollemia nobilis, che è una specie di conifera trovata in epoca relativamente recente, parlo di una trentina di anni fa, in una valle sperduta dell'Australia. Ce n'è una anche a Merano, nell'orto botanico di Merano adesso, quindi si sta riproducendo e non è più così rara perché la stanno riproducendo i vivai, però è una novità. Era una pianta che era rimasta, cresceva in un ambiente assolutamente isolato e che quindi è stata scoperta in epoca recente. Quindi diamo conto ci sono, oltre a questo apparato iconografico strepitoso, ci sono anche dei bellissimi saggi, anche uno molto bello sul cinema nel giardino, devo dire. E quindi è una pubblicazione di grande bellezza e che incontrerà la curiosità di chiunque ami il giardino e ami stare nel giardino e abbia una naturale propensione a scoprire e a conoscere qualcosa sull'arte del giardinaggio. Sì, se devo ringraziare la provincia autonoma di Trento che mi ha dato fiducia in questo lavoro e anche l'ente per cui lavoro, per cui e ha dato anche un contributo a quest'opera, e anche agli autori che hanno contribuito, perché visto che hai citato il cinema, Antonella Pietrogrande per esempio è referente IFLA e ICOMOS, Comitato del Paesaggio Internazionale e UNESCO italiano, e anche l'organizzatrice, faccio un po' di pubblicità adesso, dei corsi del Giardino Storico di Padova, il gruppo Giardino Storico, e che ha una bellissima realtà dove si parla di paesaggio di giardino. Sono arrivati quasi a 40 anni di corsi, sempre di altissimo livello, e quindi ha dato un contributo anche in questi testi. Maria Pia Cunico, che è un po' è stata mia maestra, è stata anche progettista del progetto di restauro del parco, ma poi anche tutta una serie di persone che a titolo gratuito hanno contribuito a questa opera. E parlo di fondazioni alle quali abbiamo scritto, penso a una fondazione di Pasadena, California, che ci ha dato una bellissima riproduzione del tulipano gratuitamente, e quindi in modo molto semplice, risposta a una mail, usate per cosa la usate, riempite un modulo e ci è arrivata. O amici che si occupano di giardino di paesaggio, Franco Panzini, Margherita Azzi Visentini, altri che trovate, che ci hanno regalato dei testi, dei saggi o del materiale iconografico. Quindi tutti questi vanno ringraziati, perché non è solo farina del mio sacco, è un'opera collettiva, e noi abbiamo sì elaborato una parte di testi, poi abbiamo anche organizzato del materiale, che quindi dato delle tracce e raccolto e dato forma del materiale per organizzarlo in questo testo. Io lascerei la parola a qualcuno del pubblico, se avete qualche curiosità. Prego, signora. Però poi vedo delle fotografie e delle immagini fra giardino al francese, non capisco bene dove stia la differenza. Vedo spazi verdi cintati da basse siepi e dopo. Adesso per motivi di tempo non mi sono addentrato in approfondimenti, lo trattiamo nel libro e anche nella mostra, però per rispondere sinteticamente, il giardino alla francese è un'estensione di un concetto di dominio, quindi di spazi dove l'uomo governa le forme e i disegni. Però il giardino alla francese si estende su spazi illimitati. Il dominio del Re Sole deve essere sull'infinito. Quindi le viste, c'è una bellissima vista che abbiamo riprodotto anche, che è famosa, insomma la troviamo un po' dappertutto, di quello che era di com'era Versailles. Lo sfondo si perde nell'infinito, perché il Re Sole è Sole, non è un pianetino, cioè lui domina tutto. Invece il giardino all'italiana è un giardino fondamentalmente di villa, quindi con spazi più limitati, e quindi il centro è una villa, e quello si potrebbe dire, sì, c'è un palazzo anche nei giardini alla francese, però è una scala più ridotta. È una semplificazione estrema, però è un po' così. Capito, grazie. No, ho anche notato, osservando, a me piace guardare le pianticine che spuntano spontanee all'inizio della stagione, e queste pianticine così modeste, e ho notato che la predilezione della natura per certi colori, tipo il bianco, il giallo e l'azzurro, mentre invece assai più raro ho visto il blu, assai più raro ho visto il rosso, e spesso ho notato che le corolle sono formate da 5 petali, come se la natura appunto avesse una predilezione, diciamo, per questo numero 5. Mi sono chiesto perché 5 e no. Non so rispondere al tema, al numero, so dare una risposta al colore, cioè il colore riguarda anche la capacità che hanno i pronubi, quindi gli insetti, di individuare di più certi colori rispetto, è come se fa parte dell'evoluzione. Nella storia dell'evoluzione si sono evoluti più insetti che cercano colori tipo il giallo o più del blu o eccetera, quindi i pigmenti gialli. Poi ci saranno sicuramente anche altri fattori. Certo, Prego. Io più che altro una riflessione, una cosa un po' personale. Sì. Allora, io e mio marito siamo comunque amanti del giardino e più che altro coltivatori, ecco. Siamo di Levico un quarto di sangue ciascuno e siamo tornati a Levico perché abbiamo ereditato un pezzettino di terra, quindi il nostro frutteto e orto ce l'abbiamo a Levico. E la mostra che c'è a Villa Paradiso l'ho visitata un'estate con la bici, sono andata fino lì e mi ha dato un po' l'ispirazione, anche se poi la mostra mia è andata in un'altra direzione perché sono la referente del Museo Mercantile e 2 anni fa abbiamo fatto una mostra, ovviamente con la collaborazione di tante persone, sulle limonaie a Bolzano. E l'ispirazione appunto me l'ha data la mostra a Villa Paradiso. Molto contento di questa cosa. Grazie. Grazie. Se c'è qualche domanda, osservazione, critica, suggerimento, noi siamo qua. Cosa piantare adesso, cosa mettere a dimora, questo lui ci può dire tutto. Ecologico, non so come l'ha chiamato, di questo filosofo giardiniere bellissima. Francese, cioè insomma il fatto di tenere i prati alti, di non so, coltivare i fiori sui tetti, che so. Sì, beh, lui ha grazie. Intanto, allora, si è dedicato, aveva vinto anche un premio. Come si chiama? Gilles Clément. Gilles Clément, scritto in italiano, Gilles Clément. È stato pubblicato molte volte, molti dei suoi testi sono pubblicati anche in italiano, tradotti per, tu lo sai sicuramente, quale casa editrice, non mi ricordo, Quodlibet, esatto, sì. E quindi trovate le sue idee, alcuni testi sono di impronta proprio filosofica, quindi ci spiega qual è la sua idea, come si è evoluto il suo modo di vedere, quindi è partito dall'elogio di piante selvatiche, aveva lavorato con delle stanze cosiddette, quindi spazi confinati dove lasciava le piante evolversi in modo naturale, la mano del giardiniere è la guida, quello che seleziona, però il giardiniere cerca di spostare un po' gli equilibri ma poi lascia fare la natura. Lui a Lille de Borange ha fatto un progetto che poi è stato realizzato, che è famoso, pubblicato anche in uno dei suoi libri, però l'ho visto solo in francese, dove vicino alla stazione di Lille, in Francia, ha scavato, lì c'era un problema di quote, quindi si doveva smantellare tutta una specie di montagna, perché la stazione era una quota più bassa, e lui ha fatto degli scavi, ci ha fatto colare del cemento sulla terra, e poi ha asportato tutta la parte esterna, e quello che è risultato è sono delle pareti che sembrano roccia, perché sono tutte irregolari, sopra c'è un'isola dove l'uomo non fa nulla, e questa è stata la sua provocazione. Dobbiamo lasciare degli spazi anche in città dove la natura fa il suo corso. È ovvio che non è una cosa che cambia l'ecologia o il clima, però è stata una provocazione che poi ha seminato delle buone idee nel mondo dei paesaggisti, e questa è una. Poi uno dei suoi bei libri che non vanno presi alla lettera è l'elogio delle vagabonde, quindi parla delle piante, di come si spostano, però lui è anche un giardiniere, quindi lui sa governare delle piante che potenzialmente poi diventano anche invasive. Se poi si diciamo prende il giardiniere è anche il nuovo economista, perché lui ovviamente sì. è un stigmatizza il turbocapitalismo e tutte le leggi liberiste che portano poi agli sfacelli, agli asfalti sfrenati, all'industrializzazione coatta, insomma, quindi è molto interessante anche per quello. Cioè, sono delle idee comunque di sostenibilità, ecco, che un po' si discostano anche da uno dei miti attuali, che è quello del bosco verticale di Milano, che è un progetto sicuramente molto interessante, a me piace anche molto, però tutto fuorché un esempio di sostenibilità, insomma è una cosa che appartamenti da calciatori che guadagnano milioni di euro all'anno e che possono permettersi di spendere 20-25 mila euro all'anno solo per il verde, ecco, per la manutenzione, perché questo è l'ordine di grandezza. Quindi quello che si guarda anche nel pubblico, ma poi si può praticare anche nel privato, e di cercare delle soluzioni che sono sostenibili, vuol dire non inseguire ciecamente un'idea propria, ma vedere, osservare e avere un modello di sviluppo compatibile con la situazione reale. Tanto le immagini sono andate avanti. Volevo anche capire, perché per esempio qui a Bolzano ancora l'erba si taglia tantissimo, c'è un'ossessione per tagliare il prato, è una cosa che non so come si potrebbe fare per educare, insomma, le persone a lasciar crescere l'erba, che se questo... È positivo, è bene per la natura lasciare crescere l'erba oppure no? È senz'altro positivo, perché in un parco pubblico se si lasciano, si chiamano sfalci differenziati, quindi lasciare che alcune parti di un parco vadano a fiore, l'erba diventi alta, si traduce in termini di maggiore biodiversità, quindi è sicuramente positivo. D'altra parte, però, in un ambito urbano dove c'è anche una pressione antropica, quindi tanta gente che gira, la richiesta del pubblico è di avere degli spazi che sono calpestabili, dove la gente si può sdraiare, e la risposta che viene data come regolamenti di verde pubblico è quella di comunque di non asportare l'erba, ma di usare i tagli mulching, si chiamano, che quindi sono delle falciatrici, dei tosaerba che sminuzzano in piccole parti l'erba e la restituiscono poi al terreno, perché il tema è se io porto via le foglie, porto via il terreno, l'humus non mi si forma. E quindi questo nei CAM, che sono i criteri ambientali che hanno le amministrazioni pubbliche, questo è uno dei temi che ormai entrano in tutti i capitolati. Prego. Come si può diventare paesaggisti in Italia? Ci sono dei corsi? Come ci si forma? Abbiamo dato conto anche di questo nel libro. C'è un po' di tutto. Alla fine comunque ci sono dei corsi di universitari. Attualmente ce n'è, c'è un corso a Padova dell'Università di Agraria che forma paesaggisti e quindi agronomi per la gestione e progettazione del verde. Ci sono dei master, uno di questi è a Firenze, 2 anni, e ne sta ripartendo un master nel quale sono coinvolto a Venezia. Quindi c'è un bando che è aperto a Venezia e se ci sono iscritti partirà in gennaio. È un master di secondo livello, quindi per laureati, per specializzarsi sul tema dei parchi e giardini. Poi esistono scuole di formazione che parlano a volte di piante, a volte di paesaggio. Comunque a San Michele all'Adige, per esempio, c'è un percorso di alta formazione. A Limburg, lo conoscete anche voi, insomma, ecco, quindi è uno dei centri di eccellenza. E ci sono altre scuole, in questo momento non me le ricordo, potrei andare a vedere, comunque se volete sfogliare poi qua c'è il libro, ne abbiamo citati altri. E poi ricordo di alcuni enti e istituti, la Fondazione Benetton Studi e Ricerche, che organizza un premio paesaggio tutti gli anni, corsi di formazione, attività seminariali, e il gruppo Giardino Storico dell'Università di Padova, benemerito ente, che parla tutti gli anni di temi vari temi sul giardino e il paesaggio. Il tema del nuovo corso, non so se posso rivelarlo, non ve lo dico, ma però... Non ce lo dai, non ci scriviamo. No, non scrivete. Ma insomma, comunque sarà sempre su piante che si spostano, ecco, vi posso dire questo. Ecco. Straordinario viaggio delle piante. Ecco, sì. Allora, quello, per esempio, questo di Padova è anche disponibile online, quindi con una quota di partecipazione, mi sembra 30 euro, quindi assolutamente affrontabile. E uno, se non può spostarsi, si vede le lezioni dal computer, da un tablet, da un telefono. Ecco, quindi, poi lo so, in presenza è più bello, però qua in Alto Adige non saprei. Non ho una visione globale. Ecco, su Cioi, sì. E per chiudere un po' questo percorso, gli ultimi giardini che abbiamo affrontato sono una visione moderna, visto che abbiamo parlato di natura, la natura che si riconquista degli spazi. Questo è il Südgelände di Berlino, un territorio che era rimasto terra di nessuno all'epoca del muro, dove era una stazione ferroviaria, quindi uno scalo grande, 30 ettari, nella zona sud-est di Berlino, e è diventato così, è diventato uno dei parchi di Natura 2000 di Berlino. Bellissimo. Premio internazionale di paesaggio. E poi un altro modo di fare giardini adesso è quello dello studio Latz & Partners, fra l'altro anche loro molto generosi nel fornire materiale, tedeschi, di archeologia industriale, che hanno vinto vari premi per progetti di archeologia industriale e hanno realizzato il Parco Dora a Milano nello stabilimento dell'ex Mirafiori. Sono le colonne dei capannoni dell'ex Mirafiori, che entrano a far parte del paesaggio di questo giardino, dove in ferro. Una parte è rimasta come spazio per gli skateboard, quindi coperto per i ragazzini che giocano giocano a calcio. Quello. E una parte è rimasta come scheletro, però sotto si sviluppano vari tematismi di piante. E finisco con questa, che è l'Highline di Manhattan, dove Pete Rudolph, che è uno dei giardinieri e progettisti paesaggisti più in voga attualmente, si è veramente scatenato con le piante erbacee perenni e ha introdotto una delle ultime mode nel paesaggio, ma non è solo una moda, è anche un messaggio di sostenibilità. Lavorare con le piante erbacee vuol dire creare degli ecosistemi artificiali che poi vanno avanti anche abbastanza da soli, richiedono poca manutenzione, il risultato è bellissimo. Non c'è spazio. Lineare. Non c'è sfalcio. Non c'è sfalcio. Ecco, e con questo vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie, Fabrizio.